Baldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati per un'altra ora di Zibaldone qui su Radio Contrabanda. Oggi parleremo di un tema davvero importante. Cominciamo con questa canzone che, in fin dei conti, sentirete il testo, lo introduce un po' questo tema. Beh, abbiamo aperto con un brano dannato, era il 1976 per questo La CIA di un giovanissimo allora Eugenio Finardi. E no, non parleremo della CIA in concreto, non parleremo di Guerra Fredda o dei venti di Guerra Fredda che stanno tornando nel mondo, insomma, in qualche modo, con quello che stiamo vedendo tra Trump, Putin, l'Ucraina, eccetera, eccetera. Però sì, Banzo, che parleremo, e innanzitutto buon pomeriggio e bentornato a Zibaldone, parleremo di spionaggio e di un caso che riguarda l'Italia, che è davvero molto caldo. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, rieccoci. Sì, è una puntata che parlerà di spionaggio, però non nel senso più o meno glamour che si attribuisce alle spie cinematografiche, perché purtroppo si tratta di un caso drammaticamente reale e di un caso che ha a che vedere, in qualche modo, credo di non esagerare Steven, con la tenuta democratica del nostro paese. Effettivamente si può dire che uno dei temi, e passo a annunciare il titolo così sarà già più chiaro, è il caso Paragon. Una delle chiavi di lettura di questo presente infurioso e spesso raccapricciante di venire è l'utilizzo delle nuove tecnologie come strumento di controllo e monitoraggio, in questo caso, del dissenso. Ed è un tema sicuramente vastissimo che approfondiremo nel corso di questa puntata, che ti lascio introdurre un po' meglio. Eh sì, insomma, il caso Paragon è scoppiato all'inizio di febbraio, no? Varie persone in Italia, attivisti come Luca Casarini e Beppe Caccia di Mediterranea Saving Humans, il giornalista, direttore del quotidiano online Fanpage Francesco Cancellato, ma anche altri attivisti, e non solo in Italia, ce ne sono almeno una novantina per ora in diversi paesi, in 13 paesi in totale, si sono accorti di essere stati spiati attraverso degli spyware, termine tecnico che insomma cercheremo anche di capire meglio di che cosa si tratta e come funzionano, sono stati introdotti nei loro telefoni. Stiamo parlando appunto di attivisti, di insomma persone attive nella società civile, soprattutto nella difesa dei diritti umani, come è il caso appunto di Salvare Vite nel Mediterraneo, ma anche di giornalisti di un quotidiano molto letto come Fanpage, per nominarne solo alcuni. Ecco, questo è il caso Paragon, nome di questa impresa israeliana che vende il suo spyware, i suoi prodotti essenzialmente a governi. Ecco. Ma di tutto questo ne parleremo nei prossimi minuti. Lo faremo innanzitutto insieme ad Alessandro Orlovsky, che è un grande esperto di nuove tecnologie, è stato nostro ospite in varie occasioni, esperto di cyber intelligence, di antipropaganda, fondatore della startup Water on Mars, che è lavora proprio su questi temi. E poi è di una delle vittime, Beppe Caccia, che è stato a suo tempo assessore al Comune di Venezia, consigliere comunale fino al 2014, e dal 2018 insieme a Luca Casarini ed altri attivisti è stato fondatore di Mediterranea Saving Humans. Quindi insomma io credo una puntata molto ricca, con una tematica molto complessa da sviscerare e appunto, come tu dicevi Banzo, molto preoccupante. Bando alle ciance, perché il tempo è sempre poco in radio, io direi Banzo, se vuoi introdurre rapidamente il brano che ci ascoltiamo ora prima di parlare con Orlovsky, che sarà un frammento di una colonna sonora che ci accompagnerà durante tutta la puntata. Esatto, ascolteremo alcuni frammenti della colonna sonora di La spia che viene dal mare, un film del 1966, colonna sonora firmata da Alberto Pisano, veterano delle colonne sonore di quando il cinema italiano Cinecittà era sugli scudi anche col cinema di genere. Il titolo, La spia che viene dal mare, detto film del 66, è un chiaro richiamo a James Bond dell'anno prima, e diciamo che giochiamo un po' con questo immaginario spionistico, anche perché comunque una bella colonna sonora d'atmosfera ci sta sempre bene, ed è stato pubblicato nel 2022, perché la colonna sonora è rimasta sostanzialmente inedita, dalla etichetta Four Flies Vols, che ha sede a Roma e che si occupa appunto di recuperi di questi materiali, soprattutto nell'ambito audiovisivo, quindi colonne sonore per il cinema soprattutto. Allora andiamocela a sentire e poi parliamo con Alessandro Orlovsky e cerchiamo di capire qualcosa di più sul caso Paragon, di che cosa stiamo parlando, come funzionano queste tecnologie dello spionaggio del XXI secolo. We'll be right back. abbiamo in collegamento telefonico con noi Alex Orlovsky, un graditissimo ritorno, esperto in cyber intelligence e antipropaganda, fondatore e CEO di Water on Mars, che lavora proprio in questi campi. Alex, innanzitutto bentornato a Zibaldone, un piacere averti con noi. Grazie, di nuovo. Grazie Steven, un piacere tornare con voi della comunità barcellonese e spagnola. Ascolta una cosa, stiamo parlando quest'oggi, come sai, del caso Paragon. Sì. Paragon non è, diciamo, il primo software che infetta cellulari, che siano di attivisti, di giornalisti, di politici, eccetera, no? Anche anni fa si era conosciuto, sì, soprattutto in Spagna, ma non solo, il caso di Pegasus, ma ce ne sono tanti altri che ogni tanto, insomma, balzano all'onore delle cronache. Ecco, con te volevo un po' capire meglio innanzitutto come funzionano appunto questi software per spiare le persone attraverso nuove tecnologie, e poi anche capire, diciamo, un pochino queste imprese che ci sono dietro, quanto possono costare queste cose, insomma, ecco, andare un pochino sui dati, sulla tecnologia, capirne il funzionamento. Quindi, insomma, cominciamo da chi sono queste imprese che producono queste cose, per chi lavorano e come fanno a funzionare appunto questi software. Allora, intanto Paragon è un'impresa molto grande, con tantissimi programmatori impiegati, e Paragon è l'azienda, il software usato, il sistema si chiama Graphite. O Graphite, certo. E uguale come Pegasus è il come dire, il malware, e mentre l'azienda si chiama NSO, e sono tutte e due israeliane. Perché sono israeliane? Gli israeliani sono specializzati in quello perché hanno investito moltissimi soldi, e grazie anche alla parte militare che hanno, che era l'unità 8200, se non sbaglio, dell'IDF, quindi del Mossad, diciamo, dei servizi segreti israeliani militari, che avevano un settore già dagli anni, se non sbaglio, dagli anni 80, anni 70, che si occupava di SIGINT. Il SIGINT tecnicamente è l'intercettazione dei segnali radio o qualunque segnale che si trasmette per l'etere, diciamo. È una cosa militare che si fa da anni, praticamente intercettare le radio trasmittenti degli altri. Ecco, hanno incominciato così. Questo era un lavoro che da noi, il compito anche negli Stati Uniti, era dedicato alla Marina Militare. Uh-huh. Infatti noi abbiamo un'intelligence della Marina Militare che è molto forte su questa tecnica. Quindi da questa unità uno degli ex direttori ha aperto la sua azienda che si chiama Paragon, che dichiara di essere un'azienda etica, a differenza di NSO. NSO, lo dico, lo vedo un po' a cane porci, il suo sistema Pegasus, mentre Paragon dice no, io non permetto di hackare, diciamo, i sistemi, i computer, i cellulari, le reti sociali di attivisti, giornalisti, eccetera, eccetera. Cosa che invece Pegasus, NSO con Pegasus questa richiesta non le fa. I due sistemi sono differenti, attenzione. Pegasus è un sistema più complesso, che anche lui si chiama Zero Day, Zero Click. Cosa vuol dire tecnicamente Zero Day? Quando si parla di Zero Day tra noi hacker, vuol dire che è una vulnerabilità sconosciuta all'azienda che produce l'apparato. Quindi che qualunque tipo di cellulare, di qualunque marca, e i più complessi, di solito i più costosi, sono gli iPhone da hackare, e praticamente hanno delle vulnerabilità. Però attenzione, quando vi dicono che vi hackano il WhatsApp, non è detto che vi abbiano hackato il WhatsApp, il cellulare, magari hanno hackato il vostro iCloud o il vostro backup. Spesso si fa quello, quindi di solito cercare di entrare in un cellulare direttamente e leggere in real time quello che stai facendo è una cosa molto costosa. Vi dico il prezzo, cioè se voi siete un'azienda statale, siete servizi segreti svizzeri, mettiamo, neutrali, che vogliono comprare, o svedesi, che vogliono usare Paragon, e Paragon Graphite di Paragon, costa almeno circa sui 5 milioni di euro solamente lo Zero Day. Il servizio, perché attenzione, quando tu c'è lo Zero Day, che è la vulnerabilità, la devi iniettare, e lì c'è tutto un team che lo deve fare, perché nel caso dell'Italia è stato iniettato tramite un PDF in un gruppo. Quindi hanno creato, questo si chiama tecniche di social engineering, hanno creato un gruppo dove hanno invitato i giornalisti, hanno invitato i trafficanti libici, non si sa bene chi ci fosse in questo gruppo, hanno invitato delle persone, quindi chi invitò nel gruppo, e quando io carico un PDF, la cosa più normale del vostro WhatsApp, cos'è? Che voi tutti voi avete in automatico la funzione di scaricare le foto, di fare il preview del link e di scaricare documenti e gli audio e i video. Quindi in automatico, anche se tu non hai letto il messaggio, il PDF entra dentro la cache, la memoria del tuo telefono, e da lì riescono a sfruttare le vulnerabilità e, diciamo, leggerti tutto del tuo telefono, tutto, anche accenderti la telecamera. E questo è successo anche a me, ve lo dico. E poi, visto che sono un esperto, nel giro di 10 minuti ho bloccato tutto, eccetera. Comunque, non con Paragon, con un altro sistema, e non con l'azienda Paragon. Allora, e quindi volevo puntualizzare una cosa. In teoria, Paragon dice che ha rescisso il contratto con l'Italia, cosa che non è vera, uno. E i sistemi sono molto costosi, un servizio da parte di Paragon per Graphite costa all'incirca 6 milioni di euro all'anno, quindi non è proprio poco. Anche lì, in Italia, dovrebbe essere il GIP ad autorizzare un'intercettazione. Però sappiamo che i servizi segreti, in caso di antiterrorismo, possono intercettare senza la richiesta del GIP, se c'è un'emergenza. E quindi bisogna capire, visto che era una iniezione di un malware a strascico, cosa vuol dire a strascico? Io lo carico dentro un gruppo, mettiamo, di persone che sono sospette di terrorismo internazionale o di traffico di esseri umani, e dentro c'erano dei giornalisti che sono stati invitati da queste persone, a chiunque chiunque abbia avuto il download automatico gli hanno infettato il cellulare, gli hanno infettato. Ecco, quindi qua le possibilità sono varie, perché dietro a questi casi non c'era solo il governo italiano, ma c'era anche il governo francese, gli israeliani e i libici. I libici non penso che possano spendere tutti questi soldi, quindi o sono stati sponsorizzati dal governo israeliano che ha detto ci penso io a pagare la bolletta, diciamo, di questo malware, oppure sono stati i francesi. Poi non so se ci sono altri paesi, potremmo anche esserci gli spagnoli nel mezzo, però io vi dico che più o meno le intelligence che ruotano sono quelle lì, che possono utilizzare e pagare questo sistema. E infatti poi il governo italiano ha negato assolutamente che il contratto gli era stato rescisso, e questo è stato fatto perché Paragon, l'azienda di Graphite, quindi del virus, era stata appena acquistata dagli Stati Uniti per 900 milioni di euro, che è una grossissima cifra. Ossia che ora Paragon è americana. Sì. E un'altra questione tecnica, quando un cellulare o un computer, no, è soggetto a un attacco spyware e quindi insomma a un virus, no, di questo tipo, come tu ci spiegavi, sì. Innanzitutto si può risalire a chi ha infettato il cellulare e si può arrivare al mandante, per così dire, o è una cosa difficile e impossibile? Allora sì, in alcuni casi si può risalire al mandante, questo succede con alcuni tipi di zero day. Ah, attenzione, quello lì era uno zero day, zero click. Zero click cosa vuol dire? Alcuni di questi malware, e ovviamente varia il prezzo, perché uno zero day lo compri sul mercato per l'iPhone dai 5 milioni agli 8 milioni di euro, lo compri, tu lo puoi utilizzare, e poi però devi avere il sistema di iniezione, perché voglio dire, devo avere il tuo cellulare, devo avere un pannello di controllo che mi permette di vedere i dati, quindi quando tu spendi 5-8 milioni di euro che lo compri dall'hacker specializzato, dall'azienda specializzata che vende quello, che queste cose sono altre aziende a parte, non è Paragon, e cosa vuol dire? Che dopo tu devi avere un software come Paragon per gestirlo, come Graphite, diciamo. Quindi è una cosa, per quello dopo i servizi li pagano annuali, tipo a Paragon li pagano, mettiamo 6 milioni di euro all'anno, perché ogni anno cambiano i cellulari e ci sono tantissimi modelli. Non è che quel tipo di hack ti entra dentro l'iPhone 12. Per l'iPhone 12 c'è un modello, per l'iPhone 15 un altro, per l'Android un altro. Sì, sì. E mi ero perso nella domanda, ti stavo rispondendo, scusami. No, figurati. No, e quindi si può risalire? Allora, sì, in alcuni casi si può risalire, perché quando vendi alcuni di questi sistemi, come quello ad esempio Pegasus di NSO, oppure una volta, noi siamo molto forti in Italia a farle queste cose qui, adesso non le facciamo più da qualche anno, ma alcuni degli zero day importanti dell'iPhone 10, l'X, al 12, sono stati fatti da dei hacker italiani che sono sotto, diciamo, come agenzia, da questi broker di zero day, che poi questi broker li vendono ad altre società, come ad esempio quelli di Paragon, che però penso l'abbiamo fatto loro. La differenza tra il Pegasus e il Paragon e il Graphite è praticamente che, ad esempio, quelli di NSO, di Pegasus, loro ti iniettavano una GIF, ti mandavano una GIF al tuo WhatsApp, GIF che tu non vedevi, Io bastava che avessi il tuo numero di telefono, ti mandavo una GIF e questa GIF ti sbloccava il tuo telefono e dopo potevo Insomma, era impossibile addirittura rendersene conto, per capirsi. È impossibile, però la tecnica di iniezione è più complessa, non la spiego perché in alcuni casi bisogna anche di mettere addirittura delle antenne attorno al target. Cosa vuol dire? Che devi avere il permesso di Vodafone, di Movistar, di Telefonica, di appiccicare delle antenne su dei ponti, perché io so che tu vivi nella zona dell'aeroporto o passerai dall'aeroporto quando vedo che si chiama IMCI, vedo il tuo codice del tuo cellulare, che non è la tua SIM card, è il tuo codice univoco, si chiama IMCI, passa da quell'antenna e poi te lo inietto, mettiamo. Poi è una cosa molto costosa quella, ancora più costosa. Ascolta, del sistema di Parma. Alex, un'altra cosa, prima parlavi di Zero Day, se non sbaglio, e Zero Click, ecco, e cosa vuol dire? Zero Day ce l'hai spiegato prima, e Zero Click vuol dire che tu non devi neanche cliccare. Ah, esatto, quello che ci spiegavi mentre adesso con la GIF. Altri che costano di meno, tipo 3 milioni, 2 milioni di euro, da comprare, non da utilizzare, e quelli lì alcuni sono one click, si dice one click, certo, tu devi schiacciarci sopra, ci devi schiacciare sopra, se no non funziona. E quindi ovviamente, ad esempio, in Italia noi ci sono delle aziende, attenzione che queste cose vengono decise dal GIP, è molto difficile decidere un'intercettazione, ci sono delle regole veramente molto molto stringenti in Italia su questo, sulle intercettazioni dei cellulari, e lo fanno ovviamente con la mafia, i pedofili, eccetera. E non è una cosa semplice, a volte per richiedere l'intercettazione di un telefono di gente coinvolta in traffico anche di bambini o pedopornografia, il GIP ci mette dai 15 giorni a un mese, e magari questi qua hanno già commesso altri due crimini. Ascolta Alex, appunto, il discorso della legalità di queste pratiche, diciamo, è molto questionabile, per così dire, e dovrebbe avere moltissime limitazioni. Ecco, l'impressione che ho io, diciamo che non sono un esperto di queste cose, è che si siano conosciuti, e credo sia solo la punta dell'iceberg, molti casi negli ultimi anni, per quanto ovviamente limitati nel numero, però insomma ce ne sono stati parecchi. Ecco, ma stiamo vedendo la punta dell'iceberg, appunto, com'è la mia impressione, o in realtà non è proprio così? Qual è un po', visto che tu domini di più questo allora, caso? Allora, in realtà all'epoca di quando non avevamo WhatsApp, Signal, tutte queste chat criptate, e io penso che un 3% dei cellulari italiani fosse sotto controllo. Bastava fare la richiesta alla Telecom Italia, che era l'unico provider di telefonia, o a Omnitel, quando erano due, poi Omnitel è diventata Vodafone, e praticamente ti registravano tutto quello che tu ti scambiavi via SMS, e partiva, diciamo, un hard disk in registrazione, proprio un hard disk fisico, un hard disk che registrava le tue chiamate, perché non c'era altro tipo di telefonia. Poi, quando sono nati gli altri sistemi, ovviamente si sono dovuti ingegnare ad entrare. Attenzione che all'inizio i primi Android e i primi iPhone, gli iPhone erano più difficili, ma gli Android, cioè, io li accavo per giocare, diciamo, e non faccio queste cose cattive. Però andavamo al bar, io e te, era molto facile. Bluetooth. Ah sì sì, io ti potevo caricare dal mio Bluetooth al tuo Bluetooth con il vecchio Android a distanza, entravo nel tuo cellulare. Ascolta, un'ultima domanda Alex, prima di salutarci, la legislazione italiana o quella spagnola, ma più in generale anche quella europea, pensando anche ai passi in avanti che sono stati fatti, seppur lentamente, negli ultimi anni, per quanto riguarda, no, la privacy, la regolamentazione dello spazio digitale, adesso si parla anche molto di intelligenza artificiale, eccetera, insomma, la legislazione esistente ci protegge da questo punto di vista o nemmeno tanto? Allora, la legislazione spagnola veramente molto è più forte di quella italiana, quella dei servizi segreti. Allora, dobbiamo distinguere quello che è la polizia, che cosa può fare un giudice, la polizia, un GIP, e cosa può fare invece i servizi segreti. I servizi segreti hanno gli extra power, insomma, i poteri extra. Ma in Spagna dobbiamo tenere conto che la commissione, il CNI, anche se hanno usato Pegasus, ma Pegasus l'hanno usato per un motivo, qua non voglio avere gli indipendentisti che mi attaccano e mi picchiano per strada, però c'era un motivo di chiamato di terrorismo in quel momento e di separazione, c'era un pericolo per la nazione spagnola, diciamo, perché si voleva separare la Catalogna. E quindi c'è una commissione apposita di parlamentari o extra parlamentari, questo non lo so precisamente, però di persone che comunque sono politiche in Spagna, che decide se che tipo di azioni di intelligence fare, e quindi anche che tipo di software utilizzare, ad esempio, per entrare nei cellulari. Questo in Italia non esiste. C'è il COPASIR, che è la commissione di controllo dei servizi segreti, e poi c'è una cosa un po' strana, che i servizi segreti in Italia sono sotto controllo della Presidenza del Consiglio. Certo, certo. È vero che in altri paesi il presidente viene eletto dal popolo, e quindi in Francia è sotto controllo di Macron direttamente, e quindi sotto controllo del presidente. Il presidente in Italia tutela la Costituzione, ma non c'è potere sui servizi segreti. E l'Italia, secondo me, è uno dei paesi che è più deboli a livello di controllo. Poi è vero che abbiamo dei servizi segreti che sono cambiati a livello etico-morale moltissimo in questi ultimi anni, ma tantissimo. Negli ultimi 20 anni hanno avuto un cambiamento incredibile, e anche dovuto al fatto che in buona parte si centrano su persone che vengono dalla vecchia arma dei carabinieri, quella in cui entravi, diciamo, passando delle selezioni più rigide, e quindi hanno una morale costituzionale molto elevata, perché i carabinieri, diciamo, nascono per difendere la Costituzione. Ascolta, sì, Alex, sì. Una domanda per salutarci, così botte e risposte. Ovviamente non si può prevedere il futuro, ma secondo te dal caso Paragon che è scoppiato in Italia salterà fuori qualcosa, o in fin dei conti sarà una cosa che si insabbia e non se ne saprà più niente durante anni? Allora, se veramente vediamo quante intercettazioni vengono fatte con Paragon, con Pegasus al mondo, e quante persone ci sono, non sono veramente tantissime, perché il caso è di circa 90 persone. Metti che in tutto il mondo, e tieni conto che quelli che abusano di più di questi sistemi sono in Sud America e nei paesi asiatici. Quindi quello sicuramente in Europa si utilizzano molto di meno. Però metti che Paragon, che Paragon fattura molto, il problema è che adesso è diventata americana la Paragon. Sì, ne sentiamo parlare di più, ma il problema è quello che dicevo di Grafite, il caso italiano, che hanno fatto un sistema che non era per targetizzare un cellulare di un giornalista, era la pesca a strascico, come diciamo, certo, noi. Sbattiamo dentro un gruppo questo file e poi vediamo cosa ne esce. E vediamo cosa ne esce. E hanno anche infettato il cellulare del cappellano dei Mediterranei. Hai capito? Per cui se ci fossi stato te come giornalista dentro nel gruppo, perché ti invitavano, e tu stacco, mi raccomando, disattiva su WhatsApp, disattivatelo anche voi ragazzi o persone che ci ascoltate, e saresti stato infettato anche te. Sì, sì. Poi probabilmente l'avrebbero staccato perché non gli interessava il tuo nome. Certo. Certo, però certo, se c'è stato dei scambi, certo, di conversazione, insomma, questo è il fatto. Cercate, insomma, di proteggervi, e ne sentiremo parlare sempre di più. Una cosa che sì, scusa, non ho risposto bene, è se si riesce a fare l'accountability, quindi capire, sì, chi ti ha infettato. Ecco, nel caso di Grafite, di Paragon, è complesso capire il paese che l'ha fatto. In caso di altri tipi di sistemi, invece, analizzando il traffico del tuo cellulare, va fatta un'analisi forensica. Noi abbiamo un'italiana bravissima, che nomino, che è la Selene Giupponi, che è una delle più grandi ex hacker proprio di queste cose, che è italiana, che è capace di fare questo tipo di analisi. In quel caso, a volte, si riesce a capire da chi è lo stato che ti sta ascoltando, diciamo. Alex Orlovsky, grazie davvero di essere stato con noi, esperto in cyber intelligence e antipropaganda, fondatore e CEO di Water on Mars. Alex, un abbraccio forte e grazie per averci invitato a capirci qualcosa di più. Telefonico con noi dall'Italia abbiamo Beppe Caccia. Beppe Caccia è uno dei fondatori, attualmente responsabile delle operazioni dell'associazione Mediterranea Saving Humans, che immagino tutti conosciate. Beppe, innanzitutto benvenuto a Zibaldone. Grazie a voi e un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. È un piacere ritrovarti, anche se parliamo di una vicenda davvero preoccupante, ecco, per utilizzare un eufemismo, la puntata di quest'oggi di Zibaldoni è dedicata proprio al caso Paragon, e tu sei uno degli attivisti, delle persone, ci sono anche dei giornalisti, l'abbiamo già ricordato, in Italia, che sono stati spiati attraverso questo spyware, no, Graphite, appunto, di questa azienda israeliana. Quindi partirei da qui. Noi prima con l'altro ospite, Alex Orlovsky, abbiamo cercato di fare un quadro, no, di una questione che è molto complessa, spesso difficile anche a livello tecnologico, tecnico, da capire, ecco, ma volevamo sentire e partire dalla tua voce, anche dalla tua esperienza, quello come vi siete resi conto di essere stati spiati e come sono andati un po' i fatti. Sì, intanto provo a raccontarvi che cosa sappiamo, anche se molti punti rimangono oscuri, e noi chiediamo trasparenza e verità in tutta questa vicenda, e dal nostro versante tutto quello che sappiamo lo comunichiamo pubblicamente e lo condividiamo, perché per noi trasparenza e democrazia, trasparenza e diritti fondamentali delle persone non sono soltanto belle parole, ma concetti che devono essere immediatamente praticati. Beh, come abbiamo scoperto di essere spiati? Era il pomeriggio di venerdì 31 gennaio quando siamo stati raggiunti da un messaggio WhatsApp che veniva non da qualche amico, dal profilo di qualcuno in contatto con noi, ma veniva direttamente dal servizio di sicurezza per i clienti di Meta, la corporation che di WhatsApp è proprietaria. È un messaggio che ci avvertiva che almeno dal dicembre dello scorso anno, del 2024, Meta aveva, diciamo così, scoperto un'attività di intrusione nei nostri dispositivi mobili attraverso uno spyware, e che se eravamo giornalisti o attivisti della società civile e sospettavamo che questa attività potesse essere un'attività di carattere governativo ostile nei nostri confronti, ci invitavano a metterci in contatto con The Citizen Lab dell'Università di Toronto. In realtà, che devo dire, io fino a quel venerdì pomeriggio non avevo mai sentito nominare, e che poi ho scoperto invece essere una struttura accademica che ha in organico una cinquantina di ricercatori senior, junior, tecnici informatici, che ha come propria esplicita mission quella di tutelare attivisti della società civile da intrusioni governative nelle loro comunicazioni, e quindi attività di spionaggio. Mi sono messo dunque immediatamente in contatto col Citizen Lab, e nel corso di una prima chiamata sono stato informato da loro sulle caratteristiche che questo attacco informatico aveva, e lì ho sentito nominare, anche qui per la prima volta in vita mia, Paragon Solution, che è dal dicembre dell'anno scorso una corporation statunitense, a capitale statunitense, con sede in Virginia, ed è molto probabilmente in questo momento, per quello che se ne sa, una delle società più avanzate dal punto di vista dello sviluppo di quei sistemi di cui Alexander ha appena descritto la portata e la potenza. Graphite e lo spyware che in questi ultimi anni Paragon Solutions ha sviluppato è appunto uno tra gli strumenti di spionaggio digitale più sofisticati e potenti al mondo. se ci si informa se ne capisce immediatamente la natura militare, è qualcosa diciamo che va ben oltre anche strumenti già in uso da parte di agenzie investigative, polizie anche in Italia, che vengono invece banalmente definiti malware o Trojan. Cioè è un programma che si inserisce nel tuo telefono mobile e non soltanto ha immediato accesso a tutte le tue comunicazioni in voce, via chat, ma può controllare ogni tipo di contenuto nel tuo telefono, può trasformare il tuo telefono a tua insaputa in una telecamera e un microfono ambientale permanentemente acceso, può al tuo posto scrivere messaggi, inviare email, fare chiamate, sovrascrivere documenti. Quindi con una capacità di spionaggio e di manipolazione che non ha precedenti dal punto di vista tecnologico. Beppe, su questo io credo che è importante anche una questione. Voi attualmente sapete fino a che momento siete, o da che momento esattamente siete stati spiati? Prima ci hai detto dicembre del 24 secondo Meta, ma insomma c'è più certezza? Si è riusciti a capirci qualcosa di più o ancora siete un po' nelle tenebre? Ma, secondo dire? Quanto ci ha comunicato Citizen Lab, almeno sul mio telefono, al momento di questa notifica lo spyware era ancora attivo. Quando questa attività di spionaggio si è iniziata, stanno facendo studi, approfondimenti tecnici per capirlo, perché potenzialmente si tratta di un'attività datata almeno alcuni mesi precedenti. Ma aggiungo un altro fatto, di lì a poco su questa vicenda, non appena col passare dei giorni è emerso pubblicamente diciamo la dimensione quantitativa del fenomeno e i profili di alcune delle persone intercettate, tu gli ascoltatori possono immaginare il tipo di dibattito che si è aperto nell'opinione pubblica in Italia. Tanto per capirci, secondo quanto Meta riferisce, le persone oggetto di questo attacco da una sola fonte sono state una novantina, distribuite in 13 paesi europei. Le persone spiate in Italia, cioè spiate su dispositivi che avevano un prefisso italiano, un più 39, sarebbero 7. Di queste 4 noi abbiamo certezza. Sono, forse l'hai già ricordato, il direttore del giornale online Fanpage. Le altre persone di cui abbiamo certezza fossero spiate da Graphite sono, oltre al sottoscritto, Luca Casarini, che con me ha fondato nel 2018 Mediterranea, David Iambio, che è persona che ha riconosciuto l'asilo, la protezione internazionale in Italia, è un cittadino sudanese che dal 2021 è stato in prima fila nelle proteste a Tripoli sotto la sede dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'UNHCR, nella capitale libica, le proteste di quelle donne, quegli uomini che in questi anni sono stati trattenuti nella tremenda realtà dei campi di detenzione in Libia. David Iambio, che ha continuato a denunciare negli anni questa condizione, raccogliendo le testimonianze di tanti altri sue compagni e compagni di sventura, no? Prigionieri del sistema Libia, quando è riuscito ad arrivare in Italia nell'estate del 2022, ha continuato quest'opera fondando l'associazione Refugees in Libia, che ha sede a Bologna, e continuando a mantenere centinaia di contatti con migranti detenuti in Libia e vittime di ogni genere di abuso e violenza, cosa tra l'altro che, ma qui inizieremo anche già a ragionare sulle ipotesi che possiamo fare dietro questa attività di spionaggio, ha portato David insieme ai suoi compagni di Refugees in Libia anche ad esporsi in prima persona nel denunciare le responsabilità del governo italiano nel rilascio del criminale di guerra libico Al-Masri. Sì, ma ne parliamo più avanti. Sì. Ascolta, su questo, Beppe, perché poi il tempo in radio è sempre tiranno e non abbiamo tanti minuti, poi sicuramente noi ci ritorneremo su questa questione nelle prossime settimane e mesi. Cercheremo di seguire tutto quello che succederà e ti risentiremo. Ma appunto, andando un attimo, come si dice in spagnolo, al grano, voi insomma, su che ipotesi state lavorando? Che idee vi siete fatti in realtà? Sai, Andreotti... Guarda, prima di tornare alle ipotesi, io resterei ancora sui fatti, perché come ti dicevo, da quando la notizia... di questi diversi casi di persone vittime di spionaggio attraverso graphite di Paragon si è diffusa, abbiamo assistito a una reazione o a più reazioni scomposte e contraddittorie da parte del governo italiano. Certo. Quando è stato reso noto che oltre a Francesco Cancellato era spiato anche Luca Casarini, esce, cosa mai vista prima, una nota anonima ma ufficiale di Palazzo Chigi, quindi direttamente della Presidenza del Consiglio, che dà atto della gravità del caso, fino a dire che veniva immediatamente interessata l'Agenzia Nazionale per la Cyber Security, dichiarava in maniera molto ambigua che nel rispetto delle norme di legge, anche quelle che regolano l'attività del comparto sicurezza, cioè quello che diciamo in gergo burocratico è come viene definito in gergo burocratico, diciamo, l'ambito dell'intelligence, l'attività dei due servizi segreti dello Stato italiano, nessun giornalista era mai stato spiato, quindi non smentendo l'attività invece di spionaggio a danni di attivisti e cercando di dare una lettura rassicurante, per cui vi era il massimo impegno nella ricerca della verità rispetto a questa vicenda. E passano alcune ore e nella mattinata del 6 febbraio questa rassicurante nota viene immediatamente smentita, niente poco di meno che da Paragon stessa, che ovviamente non parla per comunicati stampa ufficiali, ma fa sapere a due quotidiani, il quotidiano israeliano Haaretz e il quotidiano inglese Guardian, quindi diciamo due testate, come sapete, molto autorevoli, che Paragon Solutions vende il suo software soltanto a governi di paesi democratici. Sono 27 i governi clienti di Paragon Solutions, che c'erano due contratti in essere con agenzie governative italiane. Loro fanno sapere un'agenzia di law enforcement e un'agenzia di intelligence, e che questi contratti, proprio nella giornata di mercoledì 5 febbraio, quindi in contemporanea con l'uscita del comunicato di Palazzo Chigi, erano stati rescissi da Paragon per violazione delle clausole etiche del contratto che regola l'impiego dello spyware e che è anche, come vi avrà spiegato Orlovsky, l'esito dell'enorme scandalo Pegasus di 10-15 anni fa, sono norme che vietano esplicitamente l'impiego di questo spyware nei confronti di giornalisti, attivisti della società civile e oppositori politici del governo. Ed era quindi Paragon che dal 6 febbraio dice alcune cose esplicite, molto precise e mai smentite. Uno, in Italia Paragon ha lavorato, uso apposta il passato, soltanto con agenzie governative. Due, il contratto con agenzie governative in Italia è stato rescisso per violazione delle clausole etiche. Fa un po' sorridere che in questo campo ci siano clausole etiche nei contratti, ma appunto così è. E da lì, sai, si è aperto il vaso di Pandora, riunioni del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica, tentativi del governo di evitare di dare risposte pubbliche in aula alle numerose interrogazioni parlamentari che sono state presentate, come forse sapete, le riunioni invece del COPASIR, che è l'organismo parlamentare di vigilanza sull'attività dei servizi segreti, sono invece segretate. Gli stessi parlamentari hanno il vincolo della segretezza, ma nonostante questo, appunto, in una ridda di dichiarazioni di cui sottolineo la contraddittorietà tra quelle rilasciate dal di solito silenzioso, potentissimo sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che è, diciamo, l'uomo che gestisce i servizi segreti per conto della Presidente del Consiglio Meloni, il Ministro per i rapporti del Parlamento Ciriani, il Ministro della Giustizia Nordio, insomma, l'hanno raccontata tutti in maniera diversa e a modo loro, salvo a un certo punto essere costretti a dichiarare che in effetti questi contratti erano stati sospesi ed era in corso una due diligence tra governo e Paragon. Diciamo un enorme pasticcio di cui però possiamo dire alcuni elementi sono chiari. Attivisti particolarmente impegnati nella solidarietà con le persone che cercano di attraversare il Mediterraneo per raggiungere le coste europee, che sono vittime di intercettazioni, catture, deportazioni in Libia e che nei campi di prigionia in Libia soffrono violenze inaudite, come tutto quello che è emerso dall'attività investigativa della Corte Penale Internazionale è emerso a carico del generale delle forze di polizia libico Osama al-Masri. Persone che dedicano la loro vita, il loro impegno sociale e politico al soccorso in mare e alla denuncia di quanto avviene in Libia con la complicità dei governi italiani di questi anni sono entrati nel mirino di un'attività di spionaggio particolarmente sofisticata e a quanto finora possiamo sapere attività che difficilmente può avere un'origine diversa da quella di un qualche agenzia e struttura governativa. Ascolta Beppe, ci rimane un minuto, volevo che ci raccontassi qualcosa su Mediterraneo, un minuto so che è poco ma so che hai anche il dono della sintesi, poi ci ritorneremo in altre puntate sicuramente. Guarda, ma Mediterranea è da tempo nel mirino di attenzioni di questo genere, di un'attività di criminalizzazione. Mediterranea è un'organizzazione della società civile italiana che è attiva dal 2018 in mare e nell'attività di soccorso in quell'attività permanente di documentazione, testimonianza, denuncia che ricordavo prima. La nostra nave, la Mare Ionio, è l'unica delle navi della flotta civile di soccorso a battere bandiera italiana e dal 2018 a oggi ha salvato quasi 2000 persone, donne, uomini e bambini nel Mediterraneo. Evidentemente questa attività dà molto fastidio, mette in discussione il carico di sofferenza e violenza e morte che c'è nelle politiche migratorie del nostro paese e delle istituzioni europee, ma Mediterranea è più viva e attiva che mai e presto tornerà in missione in mare. Ce lo auguriamo davvero tutti e noi innanzitutto ti ringraziamo per essere stato con noi quest'oggi, ringraziamo te Luca Casarini e vi facciamo anche un grosso in bocca al lupo per tutto il lavoro che state facendo in questi anni. E ti mando un abbraccio e ci risentiamo presto per seguire questa vicenda e sapere da te come stanno andando avanti le cose. Ma io ringrazio voi Steven, ci sentiremo sicuramente presto perché questa vicenda non si chiude né si chiuderà facilmente e quindi aspettiamoci tutti sviluppi molto interessanti fin dai prossimi giorni, sicuramente nelle prossime settimane. Grazie a tutte e a tutti. Grazie a te Beppe, un abbraccio forte. Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo, ha detto la Premier. Il sottosegretario alla giustizia Delmastro, condannato a 8 mesi per rivelazione di segreto d'ufficio, ha trascorso la giornata in poltrona, dove erano nascosti ben 750 biscotti pronti per essere smistati. Alla conferenza di prefetti e questori si rafforza l'asse Mosca-Washington, svelati i dettagli dello scoop che aveva anticipato 10 giorni fa il nome del vincitore della guerra. Trump pensa a ridurre le sanzioni contro il Cremlino. Con eccesso di proteine e grassi, gli Stati Uniti non firmano un documento del G7 che definisce la piadina nata in Romagna. Strepitoso show dell'orrore alla convention dei conservatori a Washington, mentre il troppo alcol provoca agitazione e risvegli. Un operaio di 47 anni, vigile e reattivo, costretto a baciare sulla testa Steve Bannon per le prossime 4 giornate. Battaglia in Parlamento sul caso dello spyware Paragon, le rassicurazioni di Nordio. Nessuno è stato intercettato dal forno del Mulino Bianco, ma solo da un imprenditore cinese accusato di spionaggio, che ha definito Netanyahu uno strumento della divina provvidenza. Bufera per il gesto compiuto in una villetta di Vibo Valentia, un pitbull vigile e reattivo fa il saluto nazista a un neonato di 15 giorni. La Premier Meloni sconcertata, grande problema di concorrenza sleale. E avete sentito che sono tornate anche quest'oggi perché un po' bisogna riderci sulle ultimissime. Banzo, commento telegrafico perché ci sarebbero tante cose da dire. Guarda, non era una mia preoccupazione, comunque Nordio ci ha rassicurato che nessuno è stato intercettato dal fondo del Mulino Bianco, quindi le nostre immagini idilliache dell'infanzia non sono state inquinate. Ecco, questo se vuoi è una cosa positiva per le persone della nostra generazione. Ecco, non diciamo nulla sul pitbull di Vibo Valencia, che fa appunto concorrenza alla Meloni, ma anche a Steve Bannon, Elon Musk e tutti gli altri. Ma insomma, ci restano davvero pochi minuti e il tempo esatto per presentare il brano con cui ci salutiamo, l'ultimo trago. Quest'oggi ce ne andiamo in America Latina, no? Sì, ecco, è un brano che decisamente spezza con l'atmosfera della puntata, ci vuole qualcosa di più mosso, più allegro. Andiamo a recuperare un brano del grandissimo Lucio Dalla, perché marzo è un mese di anniversari, perché Lucio Dalla nacque, come tutti sanno, il 4 marzo del 43, ma scomparve anche a marzo, il primo giorno di marzo del 2012. Quindi vuole essere un omaggio per questo, per le sue ricorrenze, ecco, gli andiamo a proporre un brano del 1984, Tutta la vita, in una versione che definire mossa è effettivamente corretto, e in questi casi molto brevemente è interessante il giro lunghissimo che fa questa canzone per apparire trasmutata in questa versione, perché come arriva nel mondo ispanohablante non ci arriva direttamente con la versione dell'orchestra Billos Caracas Boys dell'80, versione 87, tre anni dopo la sentiremo adesso, ma passa prima, perché nell'86 il cantante messicano Emmanuel la porta appunto nel mondo ispanohablante con un testo del paroliere Luis Gómez Escolar, autore della Coppa della Vita di Ricky Martin, quindi si salvi chi può. E il brano ebbe successo, quindi nell'87 a stretto giro l'orchestra creata da Billo Frometa a Caracas nel 1940, quindi una dinastia, la ripropone in questa versione. Insomma, i suoni sono quelli venezuelani, salsa, merengue, e il ritmo, come dicevo, è nettamente accelerato rispetto alla versione originale di Dalla, se ricordate il brano. Quindi passiamo a proporvela. Ce l'andiamo a ascoltare, come diceva il primo sindaco socialista di Madrid, Enrico Tierno Galván, dopo la fine del franchismo, alle 19:56, tutti i venerdì, diceva: chi fa la spia è parente acquisito della CIA. Ecco, esattamente. Billos Caracas Boys, Toda la Vida, questa cover di Lucio Dalla che non avrete mai sentito. Buon venerdì sera, alla settimana prossima.